Ricordate, a ciascuno di voi spetta metà del carico, ovvero 4 unità di energia. Per trasportare ogni unità di energia servono 3 unità di forza ogni 10 metri. Ma attenzione, il mago si trova a 20 metri di distanza, quindi dovrete calcolare quanta forza serve per lanciare 4 unità di energia a una distanza doppia.